Grazie Mario. Buonasera. Oh, potete rimanere in piedi se volete. Eh? No dai, accomodatevi. Buonasera, pronti per il salmo di questa sera? Allora vi dico subito una cosa, stamattina mi hanno dato solo 20 minuti. È uno scandalo per un salmo. Poi, soprattutto per il Salmo 27, ancora, però giustamente c'erano i battesimi, quindi 20 minuti. Allora, facciamo una cosa questa sera, mi prenderò i 10-15 minuti che mi hanno tolto questa mattina e ci aggiungo qualche minuto questa sera di diritto, così lo vediamo bene bene il Salmo, vi va? Amen. Allora, alziamoci in piedi, preghiamo ancora una volta e poi subito andiamo a leggerci il Salmo che molto probabilmente è stata una canzone, è stata una preghiera, è stato qualcosa che Davide stesso, il re Davide, ha innalzato al suo Dio. Signore Gesù, veniamo davanti a te. Padre, grazie per quello che già ci hai dato, Signore. Grazie per le parole, grazie per il ristoro che c'è alla tua presenza, Signore, nell'adorarti e nel lodarti, Signore. E Padre, io prego affinché come una fiumana tu possa continuare a parlare ai nostri cuori, Signore. E Padre, in questo momento, attraverso la Tua parola, Signore, la Tua parola ispirata, Padre, preghiamo affinché possa diventare quella spada, Signore, che possa tagliare fino al profondo dei nostri cuori, Signore, e portare ordine, Padre, il Tuo ordine, Signore, che possa portare la Tua vita, che possa portare le Tue vie, Signore, nei nostri cuori. Questo preghiamo nel nome Tuo Santo. Amen. Il Signore, no, dovevate rimanere in piedi, non ci eravamo capiti, dai, vabbè. No, alzate. Che vi vergognate ad alzarvi? Dai, alziamoci, così rimaniamo attivi, belli, alcuni proprio in ribellione totale rimangono seduti. Va bene, dai, benissimo così. Lo leggo comunque. Che il nostro cuore possa concentrarci sulla sua parola, è sua parola. Il Signore è la mia luce e la mia salvezza. Di chi temerò? Il Signore è il baluardo della mia vita. Di chi avrò paura? Quando i malvagi che mi sono avversari e nemici mi hanno assalito per divorarmi, essi stessi hanno vacillato e sono caduti. Se un esercito si accampasse contro di me, il mio cuore non avrebbe paura. Se infuriasse la battaglia contro di me, anche allora sarei fiducioso. Una cosa ho chiesto al Signore. Una cosa ho chiesto al Signore. Una cosa ho chiesto al Signore. E quella ricerco, di abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita per contemplare la sua bellezza e meditare nel suo tempio. Amen. Adesso vi potete accomodare. Questo è un salmo di fiducia. Che cosa significa questo? Che il salmista, in questo caso Davide, esprime tutta la sua fede, tutta la sua fiducia in Dio e in chi Lui è. Il mio incoraggiamento, il primo incoraggiamento che vi faccio questa sera è: ogni qualvolta aprite questo libro, che sia piccolo o grande, che noi possiamo cercare e trovare Dio. Chi Lui è per noi, quello che Lui ha fatto per noi e quello che Lui ci chiama a fare. E questa sera è facile, è proprio facile perché, come tanti altri salmi, è molto esplicito chi è il Signore, il suo carattere, la sua immagine, quello che Lui ha fatto per noi. L'abbiamo letto, no? Dice da subito: il Signore è luce, è salvezza. Di chi temerò? Il Signore è luce. Che cosa significa che il Signore è luce? Il Signore è luce perché illumina noi, perché Dio è il Dio della luce, al di sopra di ogni altra luce, Lui è la luce per eccellenza. Sentite quello che dice la Bibbia in altri versi riguardo al fatto che Dio è luce. Salmo 18, al verso 28. Sì, Tu fai risplendere la mia lampada. Bellissima questa. Tu fai risplendere la mia lampada. Io sono una candela spenta. Io sono un lumino morto, ma Tu la accendi, Tu fai risplendere la mia lampada. Il Signore, il mio Dio, illumina le mie tenebre. Il popolo, Isaia 9, 2, il popolo che camminava nelle tenebre vede una grande luce. Questa è una profezia di Cristo Gesù. su quelli che abitavano il paese dell'ombra della morte, la luce risplende. Giovanni 1,4, descrivendo Cristo Gesù, dice: e la vita, Cristo Gesù, era la luce degli uomini. Sempre parlando di Gesù, in Giovanni 1,9, la vera luce che illumina ogni uomo stava venendo nel mondo. Giovanni 8,12, Gesù parlò loro di nuovo ai discepoli dicendo: io sono la luce del mondo, chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Giovanni 1,5, questo è il messaggio che abbiamo udito da Lui, Cristo Gesù, e che vi annunciamo: Dio è luce e in Lui non ci sono tenebre. Dio è luce, Dio è la nostra luce e non c'è cosa più gloriosa e più magnifica. Però la prima cosa che dobbiamo capire del fatto, e lo abbiamo letto in questi versetti, che Dio è luce e che ci sono tenebre. Ed è una cosa che troppo spesso sottovalutiamo o ignoriamo, no? È brutto parlare di tenebre, no? È brutto parlare della valle dell'ombra della morte, è una cosa tenebrosa e cupa e ci fa paura e non vogliamo parlarne, la ignoriamo, no, ma noi non è che siamo proprio così, chiudiamo gli occhi, no? Perché non ci piacciono le tenebre. Ma fratelli e sorelle, se non iniziamo da lì, e questa cosa sottolineo ancora di più stasera rispetto a stamattina, è che se non iniziamo da lì, se non ci rendiamo conto delle tenebre che viviamo, che vivevamo prima di Cristo e continuiamo a vivere oggi, la nostra salvezza sarà tiepida. Se non capiamo dalla profondità dell'oscurità dalla quale Lui ci ha salvato, non apprezzeremo mai pienamente il fatto che la sua salvezza è infinita e gloriosa. Dio è luce, Dio è la tua luce. Quali sono le tenebre che vivi questa sera? Non c'è tenebre che la luce non può illuminare. Pensate, no, alla luce, in una stanza buia. Non si vede nulla, accendi la luce, le forme prendono la loro forma, colori, ordine, ogni cosa. Questo è Dio nella nostra vita. Lui porta il giusto ordine, Lui porta i giusti colori, Lui porta la giusta vita nella tua. Il Signore Gesù ha detto: voi siete la luce del mondo. Bravissimi, tanti attenti. Voi siete la luce del mondo. Perché? Perché noi da noi stessi abbiamo luce. Perché noi siamo come Dio luce? Assolutamente no, l'abbiamo letto, perché Lui ci accende e perché Lui ci rende luce. Il nostro Dio è luce. E questa è la prima verità di questo Salmo, che è meraviglioso. Vedremo il primo verso un po' più velocemente. La seconda cosa che scopriamo del nostro Dio attraverso questo Salmo è che Dio è salvezza. E in questo Salmo, in questo versetto in particolar modo, luce e salvezza sono abbastanza sinonimi, cioè termini molto simili, vogliono dire la stessa cosa. Lui è la mia luce, mi ha salvato dalle tenebre. Dio è la mia salvezza, mi ha salvato dal mio peccato, perché io ero peccatore. Non c'era null'altro che io potevo fare se non peccare. E Lui mi ha salvato da questo. Questo è il miracolo. Questo è il miracolo. Sapete, questo termine salvezza è proprio la parola Yeshua, il verbo attraverso il quale si ricava il nome di Yeshua o Gesù. Non è meraviglioso questo piccolo dettaglio? Il Signore è salvezza e il Signore ha mandato la salvezza per eccellenza, che è Cristo Gesù, nella mia vita e nella tua vita. Amen. Lui ci ha salvati dalle tenebre eterne. Da lì dobbiamo iniziare. E da lì noi dobbiamo risvegliare noi stessi. Questo è quello che deve fare il Salmo. Questo è quello che questo Salmo deve far crescere. La nostra fede, la nostra fiducia. Io ero cieco, io ero morto e adesso sono vivo. Perché? Perché il mio Dio è luce. Perché il mio Dio è salvezza. Questa è la buona notizia. Vi vedo troppo moggi, ma questa è la buona notizia, fratelli e sorelle. Questa è la tua buona notizia, questa è la mia buona notizia. Io ero morto e adesso sono vivo. Io ero nelle tenebre e adesso vedo, perché posso vedere in Lui. Questo è il miracolo, non c'è nulla che noi possiamo fare. E queste verità devono rimbombare nei nostri cuori continuamente. Dobbiamo predicare queste verità a noi stessi. Dobbiamo alzarci la mattina e ricordare il verso 1 del Salmo 27. Il Signore è la mia luce, il Signore è la mia salvezza, il Signore è la mia roccaforte. Di chi avrò paura? E lo dobbiamo predicare a noi stessi per ricordarcelo, perché il mondo lì fuori, ma ancora di più, noi stessi e quello che ci sta dentro ci ricorderà le tenebre. E allora per questo noi dobbiamo risvegliare noi stessi. E se c'è stata una cosa che ho pregato più di un'altra cosa che questo Salmo potesse fare per noi questa sera, è che possa accendere il nostro cuore, risvegliare le nostre anime alla fede in chi Dio è nella nostra vita e possa cambiarla. Il tuo Dio è la tua luce e la tua salvezza. Amen? Amen? Il secondo andava molto meglio. L'ultimo, almeno nel primo versetto, l'ultima descrizione di Dio è che dice: il Signore è il baluardo. E che significa? Che significa baluardo? Chissà che cosa significa baluardo? Dai, l'ho detto, se ci sono molti di stamattina, non vale, non vale, non vale. Io non lo sapevo e, come ho detto stamattina, sono andato su Google, come sempre, e ne non ho neanche visto dalla ricerca generale, proprio sono andato alle immagini, così veloce volevo essere. Cioè, che cos'è un baluardo? E sono uscite le immagini del castello, delle fortezze, e dice, potevi scrivere castello. Vabbè, baluardo, roccaforte, fortezza. Che cosa fa un baluardo, una fortezza, una rocca? Arroccata molto spesso su una collina, su una montagna. Oggi sottovalutiamo un po' questa cosa, no? Perché non li usiamo più, ormai sono dei musei, sono dei monumenti, ma all'epoca ti salvavi la vita, per questo ogni città ce ne aveva una. Perché? Perché ti salvava le penne, se non ne avevi una morivi. Perché quando attaccava il nemico tu scappavi lì dentro e potevi sopravvivere per una, tre, quattro settimane, per mesi addirittura. Non solo, era simbolo di potenza. Cioè il nemico, se la tua città, se il tuo paese aveva un baluardo, aveva baluardi, fortezze, castelli, pensava 20 volte ad attaccarti, non è vero? È così, era simbolo di forza, era simbolo di potenza. E il salmista dice: il Signore è il mio baluardo, il Signore è la mia fortezza, il Signore è fortezza, è quello che dà sicurezza. E questa sera ti sfido a chiederti, quando stavo studiando il Salmo e pregavo, ho scritto su un pezzetto di carta: Gianluca, chi è il tuo baluardo? Gianluca, chi è la tua fortezza? Punto interrogativo, grande quanto una casa. Questa domanda devi farti questa sera: chi è la tua fortezza, chi è il tuo rifugio, chi ti dà sicurezza? Tuo padre, tua madre, tua moglie, tuo marito, quella relazione. Dici: fin quando ci sono loro io sono al sicuro, fin quando c'è la mia famiglia so su chi contare e sono tranquillo, ho sempre qualcuno a cui andare. Quello è il mio rifugio, quella è la mia fortezza, se ho loro io sono al sicuro. Se quello è il nostro baluardo, se quella è la nostra fortezza, è un baluardo, è una fortezza, è un rifugio, è una sicurezza molto, molto, molto debole. È molto debole. Perché? Perché non sono Dio. Perché non sono Dio? Perché non c'è nessuno come Dio. E Dio è fortezza delle fortezze. E Dio è baluardo dei baluardi. Dio è sicurezza della tua sicurezza. Chi è la tua sicurezza questa sera? Chi è il tuo rifugio? Chi è il tuo riparo? Chi è la tua fortezza? Chieditelo questa sera. Se non è Dio, grida a Lui in questo momento e chiedi perdono. E di: Signore, io non voglio che i miei soldi, il mio conto in banca, il mio posto fisso siano la mia sicurezza, siano la mia serenità, siano la mia pace. Io voglio che tu strappi via queste cose, che tu possa essere il mio rifugio, che tu possa essere la mia forza. Questa è la differenza che il Signore può e vuole fare nella tua vita, perché solo Dio è luce vera, perché solo Dio è salvezza vera, perché solo Dio è baluardo, è fortezza, è rifugio vero per le nostre vite. Tutto il resto oggi c'è, domani non c'è più. E la tua famiglia forse vorrà pure essere la tua sicurezza, ma non può garantirtelo. Domani, in un batter di ciglio, potrebbero non esserci più. E la tua sicurezza, il tuo baluardo, in un battito di ciglia, non ci sarebbe più. Dio è lo stesso, ieri, oggi, in eterno. Lui è vivo ed è sempre lì. Lui è il baluardo per eccellenza. Chi è il tuo baluardo questa sera? Chi è la tua sicurezza? Chi è la tua forza questa sera? A Lui devi andare. E, però a questo punto dovete notare una cosa, dobbiamo notare una cosa, ed è una piccola parolina che io un pochino ho omesso, no? Io ho detto il Signore è luce, il Signore è salvezza, il Signore è baluardo. E questo è vero, è così, il Signore è luce, punto. Il Signore è salvezza, il Signore è fortezza, punto. A prescindere se tu ci credi o no, a prescindere se tu lo confessi o no, a prescindere se tu hai fede in questo o no e ti rifugi in altre cose, Lui lo è, punto. Ma quello che fa la differenza nella vita di Davide è che secondo me è chiamato un uomo secondo il cuore di Dio, è proprio questa piccola parolina. Perché? Perché Davide non dice il Signore luce, salvezza, eccetera, eccetera. Il Signore, scusate, Davide dice il Signore è la mia luce. Il Signore è la mia salvezza. Il Signore è la mia fortezza. Questa piccola parolina, fratelli e sorelle, e amici e amiche, fa tutta la differenza nel mondo. Tutta. Perché? Vediamo se riesco a spiegarvelo così. Con la metafora o l'immagine del sole. Conosciamo tutti il sole, vero? L'abbiamo visto almeno una volta nella nostra vita, sì? Oh, ci siete? Alzate la mano se l'avete visto almeno una volta. Così vedo se siete svegli, se mi state seguendo o se vi ho perso completamente. Scherzo, il Signore, scusate, il sole è luce, vero? È la luce per eccellenza. Chi vive sulla terra, vediamo tante altre luci, le stelle, queste artificiali, però il sole è quella più splendente, no? Ed è sole e luce a prescindere. Se la vediamo meno, se è dietro le nuvole dall'altra parte del mondo, quando è notte e sera come adesso da noi, la luce rimane luce. E in un certo senso Dio è così. Dio è luce, Dio è salvezza, Dio è quello che dice di essere sempre. E questa è la cosa gloriosa. E per fede noi lo crediamo, però per un uomo cieco, per un non vedente, il sole rimane sole, ma non potrà mai vederlo. Non riuscirà mai a vedere la luminosità e la gloria del sole che tiene ogni cosa in vita. Perché è un problema del sole. Il sole ha mentito. Il non vedente potrebbe dire, è il sole, tu dicevi di essere luce, ma non lo sei. Di chi è il problema? Del sole o del non vedente? Questa è la differenza fra il dire e ipoteticamente credere che Dio è luce e il poter confessare in fede, come fa Davide, il Signore è la mia luce, il Signore è la mia salvezza. Io, i miei occhi erano chiusi, io non vedevo, ma Lui li ha aperti. E adesso io vedo la luce, è la luce per eccellenza. Io ero morto nei miei peccati, io ero morto in tutto quello che ero, e Lui mi ha portato a vita e vita eterna. Il Signore è la mia luce, il Signore è la mia salvezza, il Signore è il mio rifugio. Questa sera non basta che tu mi guardi e ti convinci, beh, io credo che il Signore sicuramente è il rifugio di Gianluca. E Gianluca ha fatto del Signore un rifugio. Non farà differenza nella tua vita. Hai bisogno di poter gridare per te stesso, il Signore è il mio rifugio. Il Signore è la mia luce. Il Signore è la mia salvezza. Questo ci chiama a fare il Salmo. Questo ci chiama a fare il Salmo. Perché poi, con tutta la certezza e con tutta la forza, con tutta la sicurezza, Davide potrà dire: di chi avrò paura? Chi temerò? Il Signore non è solo luce, salvezza e rifugio. Il Signore è la mia luce, la mia salvezza, il mio rifugio. E venissero pure i nemici, venissero pure gli eserciti. Di chi avrò paura? Di nessuno. Niente mi fa paura. Perché? Perché io conosco il mio Dio. So chi è e so chi è per me. Perché giorno dopo giorno ho visto che Lui è per me. Che Lui è per me. E questo può dire Davide, e lo dice Davide nei versetti 2 e 3, dice proprio questo: quando i malvagi si affacceranno e loro cadranno, perché Dio è al mio fianco, perché il mio Dio è la mia luce, la mia salvezza. Nel verso 3, se un esercito si presentasse, è quasi spavaldo qui, Davide, e prova a dire: si presentasse questo esercito e venisse pure, vediamo che cosa succede. Anche allora sarei fiducioso. No, perché noi siamo sempre, almeno io, anche con gli amici di scuola, ero sempre così. No, in barese, perché io, è questa la mia, no? Era tre volte me, no? E poi io sono piccoletto, però ero facile a parlare. Che mi interessa? Poi si presentava e diceva: no, vabbè, ma io dicevo così, si parlava fra ragazzi. E sì, quando si presenta il nemico tutto cambia, vero? Nella vita di Davide il nemico si presenta. Se leggete il resto del Salmo, lui è proprio in questa situazione. L'esercito gli sta alle calcagne e lui dice: anche se dovessero presentarsi, anche allora io sarei fiducioso. Perché? Perché io so chi è il mio Dio. E poi Davide passa al verso 4, che io credo essere il cuore di questo Salmo e sul quale mi vorrei concentrare per il resto del tempo. E il verso 4 dice questo: una cosa ho chiesto al Signore, e quella ricerco, di abitare nella sua casa. Dove Davide era in grado di acquisire questa certezza? Dove Davide poteva sapere con certezza che Dio era la sua luce, la sua salvezza, il suo rifugio? Dove poteva guadagnare questa forza incrollabile che anche quando il nemico si presentava, lui rimaneva fiducioso? Dove? Se non alla sua presenza. E notate quello che Davide chiede. Davide dice: una cosa ho chiesto. Allora, sicuramente anche Davide aveva moglie, e che ne aveva di più, quindi almeno una doveva essere un po' fastidiosa, no? Sulle tante che aveva. Ci aveva una miriade di figli, e sappiamo i caos e i guai che questi figli combinavano. E poi era re di un regno, e chissà di quante altre situazioni noi siamo all'oscuro. E che Davide poteva chiedere: Signore, tu vedi a quella, guariscila tu, toccala tu. Quante volte abbiamo pregato così: Signor, liberamene tu, falla morire adesso, così non si sa, io me ne libero. Di quante cose Davide poteva chiedere al Signore, dice: una cosa sola. Vediamo quanta priorità ha questo per la vita di Davide, quanta singolarità di pensieri e di intenti a Davide. No, Signore, io tolgo tutto il resto, mi trovo in una situazione difficile, ci sono i nemici che mi sono alle calcagne, ma io una cosa ti chiedo, al di sopra di tutte le altre, una cosa, nient'altro. E questo mi fa ripensare a se dovessi o se avessi avuto l'opportunità di registrare le tue preghiere. Quante cose ci sarebbero? E che cose ci sarebbero? La maggior parte delle mie preghiere io le scrivo in un diario per mantenere la concentrazione. È un trucco che vi suggerisco se siete facili a distrarvi. Io sono facilissimo a distrarmi. E quindi inizio a scrivere le mie preghiere al Signore. E questo fa due cose. Uno, mantiene la mia concentrazione. E due, le registra effettivamente queste preghiere. Allora sono andato a rivedere e ho visto cose. Ho visto cose bellissime, però ho visto altre tante cose che oggi dico, Signore, veramente ti ho chiesto questo. Davide chiede una cosa sola. Una cosa sola chiede. È di stare alla presenza del Signore, perché sa che quello fa la differenza nella propria vita. Perché sa che quello trasforma e cambia tutto. Una cosa sola ho chiesto. E quella ricerco. Più in là lo vediamo che cosa significa, è quella ricerco. Però intanto ha chiesto una cosa, è di poter dimorare nella sua casa, per poter contemplare la sua bellezza e meditare nel suo tempio, alla sua presenza. Questa è la richiesta che fa Davide, una cosa sola. Chiede la presenza del Signore, chiede che il Signore possa manifestarsi in tutta la... che lui possa vivere la presenza del Signore, che lui possa ricevere un'immagine della sua gloria, anche perché poi nel Salmo più in là, ve lo posso pure leggere, al versetto 8 dice: il mio cuore mi dice da parte tua, dice Davide, il mio cuore mi dice da parte tua, cercate il mio volto. Dio stesso dice: cercate il mio volto. E poi Davide risponde: io cerco il tuo volto, o Signore, non nascondermi il tuo volto, non respingere con ira il tuo servo. Qui Davide è alla ricerca, una cosa sola chiede, di poter vedere Dio in tutta la sua gloria. Dio è un'immagine di chi lui è. Proprio un'immagine, questo volto vuole vedere. Perché? Perché sa che se vede quello, perché sa che se ha la rivelazione di chi Dio è in tutta la sua gloria, la sua fede sarà confermata che il Signore è la sua salvezza, che il Signore è la sua luce e che il Signore è la sua fortezza. Una cosa sola chiede. Fratelli e sorelle, chiediamo una cosa sola. Io prego che da oggi in poi, con più forza, con più desiderio, con più bramosia, possiamo chiedere una cosa soltanto. Nei nostri momenti di preghiera, che possiamo vedere il Signore. Che significa vedere il Signore? Che questa è una cosa, no? Io ci ho provato e continuerò a provarci fino al giorno che morirò. Perché poi il giorno che morirò non servirà più chiederglielo, perché lo vedrò, no? Però fino a quel giorno, Signore, fammi vedere il tuo volto, Signore, fammi vedere chi sei, Signore, voglio vedere la tua gloria, Signore, voglio vedere te in tutto il tuo splendore. È come richiedere, no, di vedere una foto. Signore, se proprio non posso vederti chiaramente, fammi vedere una foto di chi tu sei. E una foto ce l'ho, ve la faccio vedere, guardate questa foto, quanto è bella. A stento riesco a trattenere le lacrime, no? Questi sono i miei tre figli. Non sono bellissimi, erano qualche anno fa, però sono bellissimi, sono cresciuti, sono diversi. Guardate quanto si amavano. Vedete, qui c'è Elijah e Aurora, il mio primo genito e il secondo genito. Sono bellissimi, si amano ancora così, si vogliono molto bene. Ma non sono carini, sono proprio teneri, li voglio stringere, mi manca quel tempo che c'avevano un po' di cicciotta sulle guance, sono troppo belle. Invece queste due foto è di quando Chloe è nata, no? L'ultima nata nella nostra famiglia, la femminuccia. Guardate Aurora come guarda Chloe, La guarda che se la vuole mangiare, qua quasi se la stava mangiando, poi l'abbiamo salvata in tempo Chloe, perché l'ha fatta saltare dal divano. Se la vuole, era così. Questa immagine mi parla del carattere di Aurora. Mi dice che lei era così innamorata di avere una sorellina, un bambolotto vivo col cui poteva giocare e amare e stringere. Era bellissima questa cosa. E lei non stava nella pelle quando ha incontrato sua sorella. È stata una cosa bellissima. E questa immagine me la ricorda. E poi guardate Elijah. Elijah ora c'ha il mezzo sorrisino, lo vedete? In tutte e due le foto sta ridendo, fa... Allora, vi assicuro che questo mezzo sorrisino non è un'altra sorellina, non poteva venire il fratellino, adesso sono due femmine. No, vi assicuro che non è quello il sorrisino. Il sorrisino a metà è contento, è molto felice, a modo suo non sta nella pelle, però è anche E questo è il suo carattere, il fratello grande. Vedete come la tiene? È preoccupato quando la teneva, era preoccupato quando la... Non la voleva rompere, la voleva proteggere, la voleva custodire, perché aveva questo sentimento in sé. Vedete cosa fa un'immagine? Accende il mio amore, accende il mio affetto per i miei figli. E poi insieme abbiamo contemplato e meditato su questa immagine. E i loro caratteri sono usciti fuori, l'abbiamo fatto solo per 2 minuti. Io credo che il salmista stesse chiedendo la stessa cosa. Stesse dicendo: Signore, voglio vedere il tuo volto. Fammi vedere un'immagine, anche un flash di chi tu sei. Che io possa contemplarlo, ammirarlo. E che io possa meditare in chi tu sei, nelle tue caratteristiche magnifiche e quello che fai per me. Secondo me ha scritto il versetto 1 solo dopo aver vissuto il versetto 4. È riuscito a dire: il Signore è la mia luce, la mia salvezza, la mia fortezza, solo dopo aver visto il Signore in tutta la sua bellezza. Ora, non credo che questa sia un'esperienza mistica, no? O comunque voler vedere il suo volto per finalmente poter dipingere il quadro di Gesù preciso, per poi adorare il quadro. Non è assolutamente così. Ma piuttosto è chiedere: Signore, voglio, dammi te stesso. Fallo come tu meglio credi. Se è un'immagine visiva, se è solo un sentimento nel mio cuore, se ma io voglio stare alla tua presenza. Vieni con la tua presenza, che io possa vederti, che io possa contemplarti, che io possa ammirarti. Signore, voglio te, voglio vederti in tutta la tua bellezza per poter contemplare. E poi, nei momenti di difficoltà, quando i nemici vengono, voglio poter ricordare quello. Perché è quello che mi dà fiducia, perché è quello che mi dà fede, che tu sempre sei la mia luce, la mia salvezza, il mio rifugio, a prescindere dalle mie circostanze. E fratelli, la parola di Dio stessa dice che uno è forte quando incontra avversità. E possiamo capire quanto uno è forte quando affronta le avversità. Quando affronti le avversità, allora lì hai bisogno di esercitare tutta la tua fede in un Dio che è glorioso, che è la tua luce, che è la tua salvezza, che è il tuo rifugio. E questo lo fai quando ogni giorno chiedi una sola cosa. Una sola cosa: di poter dimorare nella sua casa. Voglio darvi 4 cose. Voglio cercare, perché non sono bravissimo a questo. Io riconosco che sono bravissimo magari a far parlare la parola, però poi ad essere pratico mi è difficile. Però voglio provarci, voglio provarvi a dare qualcosa di pratico da fare affinché come Chiesa possiamo crescere in questa una cosa sola. Affinché possiamo essere molto più intenzionali a questa cosa sola. E di poter stare alla sua presenza e di poter vedere il Signore in tutta la sua bellezza. Ci siete? 1. Abbiamo già detto, il salmista dice: una sola cosa ho chiesto al Signore. Il pastore ci ha lanciato una sfida all'inizio di quest'anno. Ci ha detto che dobbiamo dire no a 4 cose. Ricordate? I 4 no di Mosè. Mosè ha detto no al peccato. Mosè ha detto no ai piaceri del peccato, in particolar modo. Mosè ha detto no a una vita agiata in Egitto. Voglio solo dirveli per ricordarveli. Mosè ha detto anche no alle ricchezze dell'Egitto. E Mosè ha detto no alla paura del re, a non vivere in paura. Queste sono cose che io credo tantissimo noi dobbiamo poter dire di no. Però per vivere una vita di visione ancora di più quest'anno e ancora più intenzionale, credo che dobbiamo dire un sì, oltre che a questi 4 no. Almeno questo sì, ci sarebbero tanti altri sì, però almeno questo sì. E il sì è: una cosa voglio, Signore, è vedere la tua presenza. E allora io non so come lo devo fare. Io non posso dirti qui e dire fallo così, questa è la ricetta, questa è la formula, fai così, tranquillo, assicurato, vivi la sua presenza. Però io prego che tu questa sera possa prendere la decisione di dire questo sì. E lui prima o poi verrà, perché lui ce lo promette, perché lui ce lo chiede. È lui che nel verso 9, Dio stesso ha detto cercate il mio volto. Una cosa sola dobbiamo fare, un sì dobbiamo dire a Dio per quest'anno, per vivere una vita di visione, per vivere una vita di differenza e di cambiamento e ricercare Lui, una cosa sola, e di poter vedere Lui. Una cosa ho chiesto. E quindi diciamo di sì. La seconda cosa, Davide dice ho chiesto. E io ti dico questa sera, abbi il coraggio di chiedere. O meglio, o forse ancora di più, abbi il coraggio di richiederlo. E richiederlo forse è ancora più difficile. Per me è stato più difficile. Ho vissuto momenti intensi dove ero sulle mie ginocchia e chiedevo, Signore, fammi vedere la Tua bellezza. Signore, voglio vivere la Tua presenza. Sono qui, ho preso questa ora, questo tempo per stare con Te. Vieni, Signore, vieni. E sono stato in silenzio e ho aspettato e nulla. Niente. Non è successo niente. Per questo ti dico, abbi il coraggio di chiedere. E abbi il coraggio di continuare a chiedere. Prima o poi, per fede noi sappiamo, Lui verrà. Prima o poi Lui si rivelerà. Prima o poi Lui aprirà i nostri cuori affinché noi potremo vederlo. Però non sta a noi. È una richiesta. E quando chiedi una cosa, sta all'altro offrirtela o meno, no? Davide dice proprio questo, una cosa ho chiesto, una cosa ho chiesto, abbi il coraggio di chiedere, prenditi il tempo per chiedere, forse lo devi fare una volta, forse lo devi fare due volte, forse lo devi fare 10 volte, non ti stancare, continua a perseverare, ci vuole fede, no? Senza fede è impossibile piacergli, ci vuole fede per farlo una volta. Ci vuole 20 volte più fede per farlo 5 volte, e 10, e 100. Non importa, abbi il coraggio di chiedere, di prenderti il tempo, di stare con il tuo Dio e di chiedere, Signore, fammi vedere la tua gloria, voglio vederti. La terza cosa. Davide dice, io ho chiesto, però poi dice, io ho cercato. Una cosa sola ho chiesto al Signore, è quella cerco. E questo termine è proprio l'immagine di un archeologo che scava. È l'immagine di un archeologo che scava per un tesoro. Ci vuole duro lavoro. Alcuni archeologi spendono una vita intera per poi alla fine trovare quella cosa. Questo è il sentimento che c'è dietro. Scaviamo. Non solo dobbiamo chiedere, quindi aspettare che Lui faccia qualcosa, aspettare che Dio in tutta la sua gloria si possa manifestare. Ma un'altra cosa è la nostra parte, e quella è di continuamente scavare. E io ti incoraggio, ti sprono, scava. Scaviamo insieme. Che questa possa essere una nuova stagione di Chiesa dove, come buoni archeologi, scaviamo per il tesoro, per l'eccellenza che è il nostro Dio. Scaviamo insieme, un giorno, 2 giorni, 10 giorni, 20, l'intero anno, scaviamo e lo troveremo, scaviamo e Lui farà la differenza nella nostra vita, scaviamo e Lui si rivelerà come la nostra luce, come la nostra salvezza, come il nostro rifugio, scaviamo, scaviamo, scaviamo. Questo mi parla di qualcosa che noi dobbiamo fare, qualcosa che noi dobbiamo fare con intenzionalità e con insaziabilità. Dobbiamo essere insaziabili, avere sempre quella fame e continuare a scavare. E io prego, Signore Gesù, prego in questo momento per questa fame e per questa brama di poter continuare a scavare per Te, per me e per i miei fratelli e le mie sorelle, tutti quanti noi in questa stanza che sto guardando in questo momento. Signore, che noi possiamo scavare per te, perché tu sei, per la tua gloria, per vederti come la nostra luce, come la nostra salvezza, come il nostro rifugio. Amen. Una cosa chiediamo, una cosa scaviamo. È l'ultimo. Ed è proprio questo. E il salmista dice dimorare nella sua presenza. Ne abbiamo già parlato. Però qui è la sfida pratica che ti lancio. Intimità. Il tuo momento col Signore è una lista di richieste. Che va benissimo. Anzi, il Signore, a prescindere, vuole stare insieme a noi, anche se noi andiamo con le nostre buone liste. Ma il nostro cuore è affamato di Lui. Il tuo cuore è affamato di Lui, per Lui e basta. Prova una volta, senza liste, senza richieste, spegni il canale della tua vita e vai a Lui. Il Signore, voglio stare con te, a stare, affinché tu possa rivelarmi la tua gloria, la tua bellezza, la tua presenza. Vieni, voglio stare con te. Facciamo una passeggiata insieme, rivelami la tua gloria. Quanto intimo sei con il Signore. Io lo sono e ringrazio il Signore che lo sono. A volte, se dovessi aprire quella porta di ufficio, mi vedreste, a qualcuno è capitato, no? Con le mani alzate, con le lacrime agli occhi. Ma mi capita troppo poco spesso. Io voglio di più. Voglio continuare a cercare di più, voglio continuare a scavare di più. Io ti chiedo, e per questo pregavo anche, Signore, che loro possano capire quello che noi abbiamo, quello che noi viviamo. Lo hai mai vissuto? Quanto spesso vivi il tuo Dio? Intimamente, che lo senti in quella stanza e dici, sì, adesso inizio a respirare, inizio a vivere. Chiudiamo tutto, spegniamo tutto, Signore, io rimango qua, non mi interessa più niente. Un po' quello che forse Pietro ha vissuto nella trasfigurazione, no? Signore, è buono, è bellissimo, rimaniamo qua, facciamo tenda qua. Quante volte hai voluto far tenda con il Signore nei tuoi momenti personali? Se non l'hai mai fatto, se non l'hai mai vissuto così intensamente, va bene, non importa. Dimenticando quello che ci è dietro, ci protendiamo a quello che c'è davanti. Noi possiamo vedere la sua gloria per il sangue di Cristo Gesù. Per questo lo chiediamo e per questo noi scaviamo. Lo facciamo insieme. Lo facciamo insieme. Ci alziamo in piedi. Chiudiamo i nostri occhi. Il Signore è la mia luce e la mia salvezza. Di chi temerò? Il Signore è il baluardo della mia vita, di chi avrò paura? Quando i malvagi, che mi sono avversari e nemici, mi hanno assalito per divorarmi, essi stessi hanno vacillato e sono caduti. Se un esercito si accampasse contro di me, il mio cuore non avrebbe paura. Se infuriasse la battaglia contro di me, anche allora sarei fiducioso. Una cosa ho chiesto al Signore. È quella ricerco, abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita, per contemplare la bellezza del Signore e meditare nel suo tempio. E Padre, io prego una benedizione su tutti quanti noi e prego affinché per potenza tua tu possa risvegliare i nostri cuori. Che Padre, tu stesso possa infondere in noi quell'amore, quella brama di volerti sempre di più nelle nostre vite e sempre più in maniera tangibile. Padre, una sola cosa, come Chiesa, come corpo tuo, ti chiediamo questa sera di poter dimorare alla tua presenza e di poter avere e volere te sempre di più. è di poter scavare con tutte le nostre forze. Padre, ci rimettiamo a te e chiediamo questo. Signore, vieni. Signore, vieni. Signore, vieni.